Allora, buonasera a tutti. Allora, come prima di cosa, un paio di informazioni proprio tecnico-pratiche. Ripeto che si prega di non fumare qui dentro e neanche nell'altra sala, se proprio volete fumare si fuma fuori. All'ingresso dell'altra sala c'è il banchetto con tutti quanti i libri, tra cui anche il libro che andiamo a presentare questa sera. Allora, noi come Bug 61, come Spazio Libero Autogestito, siamo onorati di presentare l'ultimo libro di Wooming 1, un excursus sulla storia delle lotte NoTab, sui 25 anni delle lotte NoTab, e rientra all'interno di una cornice che è quella di Resistenza in Cirenaica, che è una cornice che a noi è molto cara, un percorso che stiamo facendo da un pochettino di tempo all'interno del quartiere, il quartiere Cirenaica appunto, e che si occupa di analizzare, di mettere a nudo quelle che sono non solo le resistenze all'interno di un quartiere come questo, cerca di dare un excursus più profondo, di andare a guardare un pochettino di più quelle che sono le varie storie delle resistenze territoriali nel corso degli ultimi anni. All'interno di Vag 61 ci siamo sempre occupati della resistenza territoriale, sia nell'ambito NoTab, abbiamo presentato una montagna di libri in passato, è stato una due giorni molto interessante. In passato abbiamo anche presentato altri libri sempre sul movimento NoTab, ci siamo occupati di resistenze territoriali come quelle siciliane dei Nomuos, eccetera, e oggi siamo lieti di continuare questa nostra esperienza, queste nostre analisi, questo nostro percorso appunto sulla resistenza territoriale, quindi su una forma di anticolonizzazione dei territori che vengono colonizzati dal capitale, dagli interessi da tutta una serie di... non saprei nemmeno come spiegarlo bene, però... E sicuramente avranno parole migliori i ragazzi di Spinta dal Basso, Maurizio di Spinta dal Basso e Wooming 1, rispetto a quello che è un percorso in generale di resistenza. Per terminare, prima di passare la parola a loro, volevo dire che noi continueremo su queste analisi e su altre presentazioni di libri, eccetera, anche venerdì 16 dicembre, quando avremo l'anteprima della mostra fotografica di Rinaldo Capra, I banditi dell'alta felicità, e la presentazione del libro di Alessandro Senaldi, Cattivi e primitivi, il movimento NoTab tra discorso pubblico, controllo e pratiche di sottrazione. Sì. Ovviamente, come mi stava ricordando uno, questa è una due giorni, è una delle tante iniziative che facciamo all'interno di questa due giorni di resistenza in Cirenaica. E niente, spero che insomma vi possa piacere questa presentazione e in generale quello che andremo a fare tra oggi e domani. Grazie. Allora, buonasera a tutte e tutti, grazie di essere venuti qua questa sera. Questa è la prima presentazione di questo libro fuori dalle zone direttamente interessate dal movimento NoTab, dall'opposizione alla Torino-Lione. La settimana scorsa è stato presentato in Val di Susa e a Rivalta di Torino, quindi questa è la primissima, diciamo, nel resto d'Italia, e da qui parte anche un lungo tour di una sessantina di presentazioni da qui a giugno. Chiaramente il libro va a toccare degli argomenti, a raccontare delle lotte che hanno fatto drizzare le antenne in giro per l'Italia a tutti i vari comitati, coordinamenti e movimenti che si oppongono sui loro territori a grandi lotte inutili e imposte, quindi ovunque ci sia una lotta, un'avvertenza, una mobilitazione di questo tipo, da lì è partito un invito per presentare il libro, quindi insomma comincia una deambulazione anche piuttosto impegnativa, ma che insomma spero possa servire anche politicamente. Insomma, l'operazione di aver voluto scrivere questo libro, di averlo voluto pubblicare, che succede? Si sente? Sì. Di averlo voluto pubblicare con le Inaudi, con questi contenuti, è già di per sé un'azione politica, non è solo il nuovo libro ma insomma, arriva al culmine di un percorso che è stato molto collettivo e che questa sera racconteremo. Però io vorrei partire in realtà da una cosa particolare. Voi tutti sapete cosa c'è in via Carracci, no? C'è l'uscita della stazione alta velocità, quella sotterranea, quella i cui lavori sono durati quasi 10 anni, quella che doveva invidiarci tutta Italia e addirittura l'intera Europa, quella che è costata 530 milioni di euro, perché doveva per forza esserci a Bologna una stazione interamente dedicata all'alta velocità. Un precedente progetto di stazione fatto negli anni 90, quello dell'architetto catalano Riccardo Bofill, una cosa di un gigantismo, torri alte 120 metri e cose di questo tipo, era stato bocciato già da un referendum cittadino che in realtà non aveva raggiunto il quorum, ma però l'indicazione di quel referendum dopo era stata recepita dalla giunta Guazzalocca, che è l'unica che ha fermato stranamente una grande opera inutile. Però poi in realtà la grande opera si è fatta lo stesso, si è fatto questo sotterraneo di decine di metri e lungo 640 metri e ce la doveva invidiare tutta Italia, appunto costata più di mezzo miliardo di euro. Qualche giorno fa succede una cosa strana a Firenze, anche lì doveva farsi una mega stazione, la stazione alta velocità Belfiore, che era collegata al progetto di sottoattraversamento, un tunnel di 7 km sotto Firenze in cui dovevano passare i treni a alta velocità diretti a questa avveniristica superstazione. Comitati e movimenti locali a Firenze si oppongono da anni a questo progetto e a un certo punto succede che, veramente è molto recente, di 2 settimane fa, le ferrovie italiane annunciano che quella stazione lì non si farà più. Il sindaco Nardella, successore di Renzi alla poltrona di primo cittadino di Firenze, si incazza e si inalbera con le ferrovie, dice: ma come, non mi date un nastro da tagliare, non avrò una grande cerimonia, no? Così, no? E quindi fuoco, fiamme, grande polemica. Il direttore generale di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, scrive al sindaco Nardella e gli dice: quella stazione lì è un investimento che non conviene, e fa un esempio negativo di un investimento che è stato deleterio, e quell'esempio negativo è la stazione alta velocità di Bologna, di cui dice che in buona sostanza è totalmente inutile, è utilizzata da pochissima gente, è un deserto, nessuno ci vuole aprire dentro esercizi commerciali perché i pochi che hanno aperto sono comunque in rosso, presenta delle problematiche anche dal punto di vista tecnico e dice che in buona sostanza è stata una scelta sbagliata. E però ce lo dicono adesso, ce lo dicono. Tra l'altro, ecco, dice: è un esempio critico, non appetibile dal punto di vista commerciale, tanto da metterne a rischio i costi di gestione e con difficoltà logistiche. Poi dice: l'esperienza di stazioni dedicate all'alta velocità ha evidenziato che, a fronte di grandissimi spazi necessari, la frequentazione dei passeggeri è molto bassa, e qui arriva il punto che è fantastico, la frequentazione dei passeggeri è molto bassa, essendo limitata ai soli clienti dell'alta velocità. Ha fatto una stazione dove doveva esserci solo Freccia Rossa e adesso dicono: però c'è poca gente. In Italia, questo quando la racconto c'è sempre qualcuno che rimane un po' basito, perché dice: ma come, io quando prendo il Freccia Rossa è pieno di gente? Ma è una percezione sbagliata che hai. In Italia i viaggi in treno fatti su treni ad alta velocità corrispondono al 5% di tutti i viaggi in treno fatti. 5%, non li usa nessuno, perché l'80% dell'utenza è fatta di pendolari che prendono treni regionali scalcagnati, treni locali, percorrendo breve distanze. La distanza media percorsa in treno in Italia è 24 km, dimmi te se ti preserva il Freccia Rossa per 24 km, non riesce neanche a scendere tutta la tavoletta dell'acceleratore in 24 km. La stragrande maggioranza dei viaggi in treno, sopra l'80%, non supera i confini provinciali, cioè sono viaggi all'interno del territorio della stessa provincia, non le province allargate che stanno facendo adesso, le province che abbiamo sempre conosciuto. No. Io quando facevo il liceo facevo il pendolare dal mio paesino a Ferrara ed ero esattamente il viaggiatore tipo, Poi appunto c'è stata tutta questa roba dell'alta velocità a detrimento di altri tipi di trasporti, hanno voluto fare anche queste mega stazioni che adesso sono dei sarcofagi vuoti, sono dei catafalchi. Qui Gentile nella sua lettera fa altri due esempi, uno è la stazione di Torino Porta Susa, che anche lì è sempre deserta, e l'altra è la stazione di Roma Tiburtina. E forse solo per carità di patria non ha citato la stazione mediopadana di Calatrava di Reggio Emilia, che è l'inutilità cosmica al cubo. Allora, di cosa stiamo parlando qua? Stiamo parlando, non a caso le chiamiamo grandi opere inutili e imposte, perché vengono calate dall'alto sui territori secondo logiche che non sono quelle annunciate, perché non hanno alcuna razionalità trasportistica, sono solo operazioni immobiliari per far mangiare l'edilizia, no? Spesso si spera che facciano da volano alla gentrification della parte di città dove vengono costruite. Infatti sono anni che cercano di gentrificare la Bolognina, io ci vivo, per fortuna ancora non ci sono riusciti a gentrificarla, però appunto hanno sempre fatto il discorso: adesso che c'è la stazione dell'alta velocità che si volta su via Carracci, il quartiere deve essere riqualificato, che è un verbo sinistrissimo, no? Sinisterrimo, riqualificato, e da lì è partita anche tutta la campagna, le due palle che ci fanno sul degrado della Bolognina. Io tifo degrado, per fortuna che in Bolognina c'è il degrado che frena la gentrification. Sono contento di stare in un quartiere popolare, sono contento di stare in un quartiere di immigrati, in un quartiere dove sono state censite 42 nazionalità diverse. Sono contento di questo e che finora la gentrification sia fallita, e la gentrification doveva avere come volano una stazione che adesso loro stessi, che l'hanno costruita, ti dicono che è inutile, inutile, non appetibile, è così. Però appunto, grandi opere inutili e imposte. Qui a Bologna non hanno neanche bisogno di imporle, in realtà, perché il mio libro parte da una frustrazione, quella relativa alla via emiliana alle grandi opere. Le grandi opere in Emilia trovano pochissimi contrasti. Qui racconto dell'alta velocità Bologna-Firenze, è proprio la premessa, che tra l'altro è il racconto a monitore che fanno in Val di Susa. Molto spesso loro dicono: se non ci fossimo mobilitati sarebbe finita come sull'Appennino tosco-emiliano, dove l'alta velocità Bologna-Firenze ha prodotto delle devastazioni irreversibili, sono scomparsi 80 corsi d'acqua, sono stati prosciugati svariati acquedotti, per anni alcuni comuni sono andati avanti con le autobotti perché gli scavi hanno intercettato acque di falda e sono andati persi miliardi, decine di miliardi di metri cubi d'acqua, le falde acquifere si sono abbassate di decine di metri, insomma una catastrofe ecologica, oltre allo smaltimenti. Dopo leggerò quella parte del libro che racconta di questo, no? Chi si è opposto all'alta velocità Bologna-Firenze qui in città? Io mi ricordo eravamo quattro gatti nel 95 a fare i volantini, ok? Però siccome il partito, la regione, cioè tutto quello, insomma, che sapete, che poi è sempre la stessa cosa, il partito, la regione, il comune, sono sempre loro. Tra l'altro il presidente della regione era Bersani, che adesso passa come, siccome si sono spostati talmente a destra, adesso passa come quello di sinistra da difendere. Però il presidente della regione era lui, il sindaco era Vitali, tutti i comuni lungo la tratta, la regione Emilia-Romagna, il comune di Bologna votarono tutti sì all'alta velocità. Era imperativo guadagnare tempo per arrivare a Firenze. Pochi sanno però quali sono i veri guadagni di tempo dell'alta velocità. Nel 1988 il pendolino per andare da Torino a Milano ci metteva 1 ora e 20, nell'88, quasi 30 anni fa. Dopo uno sperpero di miliardi, un'aggressione al territorio, un'asfaltificazione e cementificazione mostruosa per costruire l'alta velocità Torino-Milano, oggi, 28 anni dopo, per andare a Torino-Milano in freccia rossa ci mette 1 ora, cioè solo 20 minuti di meno. Per quei 20 minuti non valeva la pena di fare quello scempio. Idem la Bologna-Firenze. Con la direttissima, cioè con il treno che c'era prima, per andare a Firenze da Bologna ci si mettevano 55 minuti, adesso ce ne si mettono 37, sono 18 minuti, 18 minuti, ok? Dopo tutti i miliardi di euro consumati, tutto il territorio devastato e tutto quanto. Ecco, si sta parlando veramente di logiche trasportistiche inesistenti, appunto, non c'è la domanda, c'è un, delle due un eccesso di offerta, e però continuano imperterriti lungo questa via. In questo momento le infrastrutture dei trasporti stanno fallendo, i porti, c'è un eccesso di capacità dei porti, le grandi compagnie della logistica, una delle più importanti, sudcoreana, che copriva l'8% di tutti i trasporti merci nel Pacifico, è fallita un mese fa, dei buffi da paura, un debito mostruoso, e aveva 85 navi per mare nel momento in cui è fallita, che non potevano attraccare in nessun porto perché sarebbero stati aggrediti dai creditori, e sopra quelle navi che sono rimaste per mesi in mare, con l'equipaggio che non poteva scendere in nessun porto, c'erano 14 miliardi di dollari di merci, capito? E falliscono i giganti della logistica, si ritorna a logiche protezionistiche, c'è una contrazione degli scambi e dei commerci, l'export cinese che ha trainato tutto per anni si è ridotto, c'è un calo di tutto, la globalizzazione frena, e questi però continuano a giustificare questi grandi opere vaticinando incredibili flussi di merci futuri. La Torino-Lione è giustificata con delle proiezioni che dicono che su quella linea viaggeranno fantastiliardi di tonnellate di merci, e invece soprattutto dopo la crisi del 2008 lì c'è stato un tracollo del trasporto di merci, e l'attuale linea storica ferroviaria è largamente sottoutilizzata. Quindi la logica non è trasportistica, ok? La logica non è trasportistica, però è quella che ti ammanniscono, ti sparano sempre un sacco di cazzate, quando invece si tratta solo di far lavorare le betoniere, le cooperative rosse amiche, i potentati del cemento, eccetera. E questa roba delle betoniere in Emilia è sacra. Cioè, tu non puoi mettere in discussione la via al progresso fatta di cemento armato, mattone e asfalto. E, ci sono le classi dirigenti dell'Emilia Romagna che culturalmente anche, non è solo una questione di interessi e di portafogli che c'è ed è appunto la molla, però c'è anche un problema culturale, non riescono a immaginare nient'altro che l'asfalto, nient'altro che il tondino e il cemento. È una love story quella del PD e delle cooperative con l'asfalto e il cemento, c'è qualcosa di erotico nell'attrazione che il consumo di suolo esercita nei confronti di questi soggetti, che poi però ti dicono che combattono il consumo di suolo con il consumo di suolo, perché poi c'è questa neolingua orwelliana per cui devono dipingerti di verde i progetti, no? Per cui ti allargano la tangenziale, la chiamano Greenway, queste cose qua. La mia frustrazione nei confronti di tutto questo nel corso degli anni, del fatto di aver visto cos'è successo sull'Appennino tosco-emiliano con l'alta velocità, del fatto di vedere che si stava costruendo una stazione che poi era prevedibile che andava a finire come nella lettera a Gentile, e il Civis, tutti i lavori fatti per il Civis, perché, che poi non è mai partito perché era un progetto balengo ed erano dei mezzi insicuri e inadeguati, e però ti hanno fatto per anni i lavori in città per il Civis, il People Mover che non serve a un cazzo, cioè diciamole chiaramente le cose, no? Ecco, la mia frustrazione nel corso degli anni, vedendo quello che succedeva in Val di Susa, dove invece un movimento di massa radicale, radicato, competente, creativo, si opponeva in maniera efficace alla loro grande opera inutile e imposta, insomma ho detto perché là riescono? Un movimento che appunto sta celebrando le proprie nozze d'argento col territorio, 25 anni di mobilitazione dal 91 a oggi, è una mobilitazione crescente che ha prodotto dei momenti di rottura fortissimi. E la settimana scorsa ho descritto tutto quello che succede in Val di Susa come un gigantesco seminario permanente di autoformazione, perché lì la competenza media sulle questioni dei trasporti, sulle questioni del territorio, dell'ambiente, delle ferrovie, delle infrastrutture dei trasporti, dei corridoi europei. All'inizio la società che doveva realizzare la Torino-Lione, NTF si chiamava all'epoca, mandava degli esperti loro, no? Dei tecnici in valle a cercare di appunto indorare la pillola, di convincere che quest'opera è importante, eccetera. Facevano questi incontri con la cittadinanza e venivano regolarmente sputtanati dal primo che si alzava e faceva un intervento che li metteva in braghe di tela. Dopo un po' hanno smesso di mandarceli i tecnici in Val di Susa, perché appunto il livello di competenza media, di acquisizione di informazioni, di insomma ormai di specializzazione in queste tematiche da parte del valsusino medio è superiore a tutto il resto d'Italia, e è molto facile in un calcolo proprio di probabilità che se mandi là un espertone sedicente a cercare di spiegarti il progetto troverai una sala piena di gente in grado di mettertelo in crisi, no? Ecco, perché in Val di Susa? Perché qui no? E là sì. Ok, questa è stata la mia domanda. Ho cominciato ad affacciarmi in valle per provare a capire, e poi è nato il progetto di fare un'inchiesta su questo con i miei strumenti. Io sono uno scrittore, cioè quindi con le tecniche letterarie anche raccontare la storia di quella valle, dopo aver fatto appunto un lavoro insomma di ricerca, di archivio, di sopralluoghi, di interviste. Ho lavorato 3 anni e mezzo per scrivere questo libro, mi hanno moltissimo aiutato i compagni valsusini, sono stato in valle 20 volte, ho intervistato oltre 40 di attivisti e mi sono fatto prestare interi archivi che poi ho portato a casa in gigantesche valigie e borsoni, e poi ho cominciato a studiarli, a compulsarli, ho letto buona parte di quello che è stato pubblicato sullo sviluppo del movimento Notav e sono andato indietro nel tempo, capire quali erano gli antecedenti, i progenitori, quali potessero essere le motivazioni geografiche, storiche e sociali e di composizione di classe, insomma, che spiegassero un fenomeno così singolare, perché di movimenti appunto contro progetti impattanti ci sono in tutta Italia, alcuni riescono anche a tirare su una buona massa. In questo momento ci sono 3 o 4 lotte veramente molto importanti e anche grosse contro grandi opere inutili che si sono anche ispirate alla lotta Notav in Val di Susa, però effettivamente quando arrivi in Val di Susa ti rendi conto che c'è un qualcosa in più, cioè veramente lì hai buona parte della popolazione di un'intera valle, hai tra l'altro un rapporto tra movimento e amministratori locali che è molto raro da vedere, hai delle pratiche veramente molto radicali fatte anche da fasce della popolazione che per anagrafe e per formazione non sei abituato a vedere, cioè non sei abituato a vedere i pensionati che ti fanno un blocco duro dell'autostrada con la barricata bruciando i copertoni, no, non sei abituato. Qui da noi gli Umarell guardano i cantieri, in Val di Susa gli Umarell assaltano i cantieri incappucciati, cioè l'anno scorso c'è stato questo blitz notturno al cantiere di incappucciati vestiti di nero tipo Black Bloc che hanno lanciato fuochi d'artificio, hanno messo un lucchettone gigante al cancello dell'uscita che gli sbirri non riuscivano a uscire, quando alla finamente sono riusciti a brancarli, che questi sono abbassati i cappucci, avevano tutti tra i 70 e gli 80 anni e sono gli Umarell che si radicalizzano, no, ecco, e però devono avere un rapporto con un cantiere, no? Quindi noi assistono ai lavori in corso con le mani dietro la schiena e magari sì, rompono anche un po' le balle, no, ma guarda, io l'ho fatto il muratore, non si fa così, no, che è una roba tipica. Invece là, azzo, arrivano di notte e c'è un'intervista bellissima dove appunto i reduci di questo blitz il giorno dopo vengono intervistati e dicono: il nostro obiettivo è distruggere quel cantiere di merda, chi semina vento raccoglie tempesta, e noi siamo la tempesta, gente con la barba bianca, una roba eccezionale, no? Ecco, quindi solo in Val Susa scene così per ora, io spero che insomma si espandano, ecco. Però appunto volevo capire perché lì, quando dicono qui, c'è un bellissimo documentario di Daniele Gaglianone sulla Val di Susa e sul movimento, si chiama Qui, ma quando dicono qui, cosa contiene quel qui? E quindi mi sono messo di buona lena, un libro difficilissimo da scrivere, non ho mai faticato così tanto per scrivere un libro, venivo da un lavorone solista grosso, poi in Clenana, e da un lavoro collettivo enorme per l'Armata dei Sonnambuli, però devo dire che una fatica come quella che ho fatto per scrivere Un viaggio che non promettiamo breve non l'avevo ancora fatta. Per vari motivi, uno appunto per, come ho detto, per la grande vastità di materiali e poi anche per tutti i vari aspetti che la storia ha, perché dovevo rendere conto anche di questioni tecniche e così, ma anche perché tutto continuava e continua tuttora a succedere. Io continuavo a scrivere e le cose succedevano e quindi io dovevo integrarle, alcune vicende che raccontavo nel libro avevano sviluppi nuovi e quindi dovevo aggiornarle, e a un certo punto mi chiedevo, e nel libro ci sono io che me lo chiedo, ma dove lo metto il paletto? Dove la metto la parola fine? Come faccio a concludere questa cosa che continua a succedere? Tra l'altro, da quando ho finito il libro, l'ho finito ai primi di settembre, sono successe svariate altre cose che sono dei prolungamenti dei fili che ci sono nel libro, no? E alla fine ho deciso di concluderlo a luglio con questa grande prova di forza che il movimento ha dato con il festival Alta Felicità, che ha attirato decine di migliaia di persone, un sacco di artisti grossi che sono venuti a esibirsi gratis per la causa, alcuni, devo dire, inattesi. Nino Frassica, che viene a dare solidarietà al movimento Notav, col TG3 del Piemonte, che gli chiede: ma lei che è venuto qui a questo festival è pro TAV o no TAV? E lui gli risponde: ma scusi, se sono venuto qui secondo lei, perché era perturbante, era straniante la presenza di Frassica, altri insomma Subsonica, Finardi eccetera, ma c'è, cioè, Frassica, quella lì è stata una prova di forza, oltre che c'era un'atmosfera fantastica e veramente teneva fede al nome Alta Felicità, e veramente c'era questa gioia lì, ma è stata proprio, perfino i giornali ostili hanno dovuto chiamarla la Woodstock dei Notav, no? Per dire che c'era veramente un sacco di gente, e adesso si ripeterà ogni anno, l'anno prossimo sarà ancora più grande, e così ho deciso, va bene, si conclude col festival, perché il festival è stato la degna celebrazione del 25ennale dell'inizio della lotta Notav in Val di Susa. Adesso il libro è uscito, sto avendo anche le prime minacce di querele, segno che funziona. E vi ringrazio, ho già messo un sacco di carne al fuoco. Lascio la parola a Maurizio Piccione del comitato Spinta dal Bass della Val di Susa. Grazie. Allora, intanto grazie a tutti per l'invito e più che altro grazie a Wuming 1 per questa operazione che ha fatto. Il libro è anche questo, come si diceva in Valle di Susa, un'operazione collettiva. Wuming è venuto in valle più volte, come ha detto, una ventina. In queste volte in tutte le occasioni ha incontrato tantissime persone che hanno raccontato pezzi di storia. Allora, queste storie che sono state raccontate le ha riportate sul libro e hanno dato un'idea di quello che stava succedendo in Valle di Susa, ma la cosa più importante, più forse quella che ci ha toccato di più, è che è andato indietro, è andato, come diceva prima, a ritornare in quelle che sono state le motivazioni che hanno fatto sì che noi arrivavamo al punto che siamo arrivati. La Valle di Susa ha una storia un po' particolare. Arriviamo a partire dagli inizi del Novecento, e lì vi sono state già le prime avvisaglie di quello che è stato poi un filo conduttore che ci ha portato poi alla Resistenza. Io sono cresciuto in Valle di Susa, sono nato e cresciuto lì, e i miei ricordi di quando ero bambino sono quelli che alle elementari veniva un partigiano del paese, che era un comandante partigiano, e ci veniva a raccontare quelle che sono state le sue avventure nel 45, 44, 43. Queste avventure ci hanno accompagnato nell'adolescenza, quando siamo cresciuti, ed è un qualcosa che ce la siamo portati dietro. Ce la siamo portati dietro come qualcosa di abbastanza naturale, normale. Cioè, si cresce e si pensa che il lottare per i propri diritti, per la propria libertà, è un qualcosa di che ci deve accompagnare, che deve essere una continuazione della propria vita di tutti i giorni. A un certo punto c'è cascata questa mannaia che era il progetto dell'alta velocità, e lì è scattato un qualcosa che ci ha fatto ricordare ricordare e iniziare a ricostruire un percorso che è stato quello dei nostri nonni, dei nostri padri, di chi prima ha vissuto questa valle. Non è un caso che l'Ampi della Valle di Susa, e quindi chi ha fatto veramente la guerra partigiana, ha animato i primi comitati notav della valle, e non è un caso che ancora adesso alle manifestazioni notav chi è ancora sopravvissuto nonostante l'età è in prima fila in queste manifestazioni. La cosa particolare è che noi non ce ne siamo resi conto di questo filo conduttore, di questo filo rosso, e il libro di Roberto ci ha dato modo di mettere in fila questi episodi, questa storia, conoscerla più approfonditamente nel suo complesso, e questo ci ha dato anche più consapevolezza di quello che siamo e quello che potremmo essere ancora, perché come si diceva la storia non è finita, e il nostro più il nostro primo bisogno è quello di trasmettere ancora alle generazioni che stanno crescendo in Valle di Susa questo bisogno di continuare a lottare per salvaguardare questa terra. Io lo dicevo quando avevo 20 anni che avrei difeso questa terra per i figli, per i miei figli che non c'erano ancora. Oggi io e Elena abbiamo due figli che hanno 18 anni e vengono ai cortei con noi e a scuola partecipano alle assemblee con gli studenti che parlano appunto di opposizione alla lotta e di come organizzarla. Questo penso che sia una delle cose principali, una delle vittorie principali che noi abbiamo, cioè l'essere riusciti a trasmettere ancora alle generazioni che non hanno vissuto neanche il 2005, che è stato un anno topico. Roberto lo racconta molto bene facendo una cronaca anche, romanzata, ma ben precisa di quello che è capitato in quegli anni. In quegli anni tantissimi ragazzi che oggi si organizzano per i cortei di oggi, di questi ultimi tempi, erano bambini o non erano nati. Ecco, il punto principale è proprio quello: riuscire a capire quali sono le tue radici, cioè riuscire ad andare indietro nel tempo, capire quello che è la peculiarità del tuo territorio, quindi quella che è stata la tua storia, e da lì recuperare le sapienze, le capacità di quelli che sono stati, chi ha vissuto quel territorio, e riportarli in una situazione di conflitto che è quella che stiamo vivendo ormai da 25 anni in opposizione al TAV. Prima c'erano altre situazioni di conflitto che sono state affrontate sempre dai valsusini, magari in altre forme, ma che comunque sono state affrontate e che ci sono state tramandate. Ho parlato della resistenza, ma ci sono stati altri momenti importanti in Valle di Susa. Ci sono state le lotte operaie, perché la Valle di Susa è una valle montana, sì, molto lunga, stretta, che nella pianura dagli inizi del Novecento fino ad arrivare agli anni Ottanta è stata fortemente industrializzata. Quindi vi è stato fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, uno spopolamento delle montagne per andare in pianura e appunto riempire le fabbriche che venivano aperte. C'erano i cotonifici dove si lavorava appunto il cotone, c'erano fabbriche di industria importanti. All'interno di queste fabbriche sono nate delle lotte che hanno fatto anche un pezzo di storia dell'Italia. Anche in questo caso Roberto va molto a fondo, va molto in precisione, va in maniera precisa a raccontare alcune storie che anche queste io le avevo sentite raccontare tantissime volte, ma non gli avevo mai dato probabilmente la giusta importanza, il giusto peso, oppure le ritrovavo normali perché erano raccontate dal mio vicino di casa che ho sempre conosciuto e che quindi vivevo questa cosa come un racconto del tuo territorio, così da prendere e da tenere per sé senza dargli un'eccezionalità. Probabilmente visto da un'altra angolazione prende un'altra importanza e ti dà anche la spiegazione del perché poi io mi sono ritrovato a fare le barricate senza darmi una spiegazione di quello che era il mio retroterra culturale. In Valle di Susa per la prima volta all'interno di una grossa fabbrica, anche questo è uno dei pezzi del libro, di una grossa fabbrica industriale, gli operai si sono rifiutati di costruire delle armi, quindi hanno fatto una mozione in cui chiedevano alla dirigenza di smettere di costruire queste armi perché sennò loro si sarebbero rifiutati di lavorare, e hanno vinto questa battaglia. In questa battaglia c'era per esempio Alberto Perino, che stiamo parlando degli anni 60, dell'alta velocità, per fortuna all'epoca non se ne parlava. Oggi Alberto Perino è uno delle persone che probabilmente molti conoscono, molti hanno visto in foto sui giornali, ed è un po' diciamo il portavoce del movimento. Leader no, perché per fortuna le decisioni riusciamo a prenderle ancora tutti insieme. Un'ultima cosa, e mi aggancio sempre a quello che diceva Roberto prima, sulla sapienza che il movimento Notav ha acquisito negli anni e che quindi ha la capacità poi di controbattere a situazioni in cui devi metterti in gioco sia la tua parte tecnica sia la tua parte di difesa del territorio, anche in maniera tecnica, perché anche quello non è solo ideologia, c'è anche l'ideologia e ci deve essere anche l'utopia di vedere il mondo in un'altra idea, ma si può e si deve partire anche da considerazioni tecniche, economiche. Questa è una cosa che reputo parecchio importante. Noi siamo partiti lottare contro questo treno grazie ad alcuni tecnici, alcuni amministratori che hanno deciso di iniziare a studiare questo progetto e di fare assemblee all'interno dei paesi raccontando per filo e per segno quello che era questo progetto e tutti i danni che stavano facendo. Stiamo parlando di persone che comunque erano docenti universitari del Politecnico di Torino, amministratori che conoscevano il territorio e quindi ti sapevano dire che tipo di albero cresceva lì e che roccia c'era sotto questo albero. Quindi se c'era una roccia che poteva contenere amianto, uranio o nulla. Questo percorso è stato fatto per centinaia e centinaia di volte nella valle, cioè centinaia e centinaia di assemblee all'interno della valle. E questo ha fatto sì che tutti, anche chi assolutamente non aveva mai saputo nulla né di geologia né di trasporti, venisse informato, imparava la materia, e nel momento in cui impari la materia, e qui sta il salto di qualità, non deleghi più. Noi abbiamo la tendenza a delegare, anche a volte non ce ne rendiamo conto, però il politico fa perché sa, quindi il ministro della sanità sicuramente ne sa più di me e probabilmente sarà anche vero, il ministro di economia ne sa di più di me di economia e sarà sicuramente vero, poi la decisione che prende può essere giusta o sbagliata ma probabilmente ne sa più di me, e quindi si tende a delegare o dire vabbè, hanno fatto così. Nel momento in cui sei padrone della materia non deleghi più, nel senso che non hai più bisogno di qualcuno che venga a dirti quello che è giusto o che è sbagliato, perché sei tu quello che sa quello che è giusto e sbagliato, perché hai studiato quello che sta capitando. Inoltre ce lo vivi in quel territorio. Nel momento in cui deleghi, in cui non deleghi più, diventi veramente il padrone del tuo destino, e insieme, essere in tanti, essere padroni del proprio destino, allora costruisci la Valle di Susa. Gli amministratori che sono passati tendenzialmente, per fortuna, sono sempre stati coerenti. Quando uno degli amministratori, che nel libro viene anche qua raccontato in maniera dettagliata, ha deciso di passare da un'altra parte, ed era uno degli amministratori più in vista, sempre nel 2005, sto parlando di Ferrentino, presidente della comunità montana, persona che era su tutti i giornali, lui sì, considerato veramente un leader del movimento notava, a un certo punto ha deciso di cambiare posizione, e tuttora ha cambiato posizione, cercando di portarsi dietro i sindaci e il movimento notava. È stato uno dei momenti, come racconta sempre Roberto, in cui il movimento notava ha traballato, ma alla fine ha dato un colpo di reni e ha detto no, qui si sta cercando di fregarci, come capita spesso in Italia. Noi abbiamo studiato questa materia, sappiamo che questa linea non ha possibilità di mediazioni, perché in realtà o lo fai o non lo fai. Perché la politica è poi sempre così, no? Tu fai una lotta, a un certo punto arriva la persona che cerca la mediazione, nella mediazione alla fine più o meno la maggior parte si adegua, rimane una piccola minoranza che continua a contestare un pochettino, ma alla fine tutto passa. Allora hanno tentato di fare esattamente questa operazione. La mediazione, la linea non si fa più dove era stata detta, perché c'era l'amianto, perché distruggeva le case, la facciamo, la spostiamo un pochettino più in là, alla fine una vittoria, perché alla fine siamo riusciti a spostarla, e quindi accontentiamoci, va tutto bene così. Allora, in una valle di 5 km di larghezza, da qualunque parte tu fai passare questa linea, distruggi qualcosa. Se non distruggi una casa, distruggi una montagna, se non distruggi la montagna, passi sopra il fiume, e quindi qualcosa alla fine viene rovinato. Oltre allo spreco dei soldi, che quello è chiaro, è lampante, non può cambiare, anzi probabilmente più cerchi di edulcorare la linea e non distruggere le case, più spendi soldi, perché devi fare tunnel, devi fare varianti. E questo ha fatto sì che appunto abbiamo ripreso a fare le assemblee, e alla fine Ferrentino è rimasto isolato. Questo sindaco che prima era presidente della comunità montana, oggi viaggia da solo all'interno della Valle di Susa, nel senso che nessuno più gli rivolge la parola, è rimasto sindaco del suo piccolo paesello, in cui ha un modo di comportarsi clientelare e sfrutta il suo essere eletto in provincia per elargire favori solo nel suo paesetto, ma la stragrande maggioranza dei sindaci è ritornata a essere a fianco del movimento in questa lotta. È successo questo perché appunto la materia la conoscevamo e non ci siamo fatti fregare dal solito politico di turno. Ecco, questo secondo me è un qualcosa che anche in questo caso deriva dalla nostra storia, deriva da chi nel 43 ha deciso di prendere le armi e salire in montagna senza delegare la libertà a qualcuno che arrivasse da lontano, e oggi, ancora oggi, pensiamo che quella è la strada giusta. E poi se volete fare domande... Aggiungo una cosa, quel no, cioè non la vogliamo né così né cosà, né qui né là, non vogliamo varianti, non vogliamo mitigazioni, non vogliamo compensazioni, quel no radicale, quell'opzione zero radicale, quel punto che il movimento Notav ha tenuto per tutto questo tempo, senza farsi fregare da proporre ipotesi alternative di tracciato e cose di questo tipo. Quella radicale opzione zero è quello che ha permesso al movimento di crescere e di tenere insieme più anime, perché quell'opzione zero è quella che mette d'accordo tutti. Nel movimento ci sono anarchici e cattolici, ci sono sensibilità diversissime tra di loro, ai chi va quelli che vanno tutti i giorni davanti al cantiere a pregare e a dire il rosario come azione anche di guerra psicologica nei confronti dei poliziotti, e hai quelli che ti assaltano il cantiere e ti fanno la barricata e vanno, in buona sostanza vanno d'accordo, perché a unirli è quell'opzione zero, quella radicalissima opposizione che non accetta mediazioni al ribasso. I movimenti si fanno fregare dalla mediazione al ribasso, dalla mitigazione e da questa falsa aspettativa che si debba proporre l'alternativa. Ma allora voi cosa proponete? Niente, non la devi fare e basta. Non propongo niente, non la fai e basta, perché è inutile. Perché devo proporti un'alternativa a un progetto che è inutile nelle sue premesse? Però tutte le volte ti fanno questo discorso, vabbè, sempre protesta e non proposta. L'Italia dei no. Ecco, in Italia si dicono pochi no, e quello è il problema. E ci si lamenta dopo, ci si lamenta quando le cose sono già state fatte, si chiama il gabibbo per far vedere guarda quanto è costato, guarda che scempio, si chiama il gabibbo dopo, capito? Si arriva alla TV, la TV dell'impegno civile che ti fa l'inchiesta postuma e piagnona sul disastro che è stato fatto, però quando qualcuno aveva provato a opporsi a quel disastro prima gli si diceva ma dite sempre di no, qualcosa bisognerà pur fare e cose di questo tipo. Il problema invece è che in Italia di no se ne dicono molto pochi, e se se ne dicessero di più si capirebbe che quei no sono affermativi, non sono negativi. Il no dei Notav è un no affermativo. I Notav della Val di Susa sono degli eroi civili, sono da 25 anni non solo tengono fermo un progetto e col tempo del loro rallentamento, del loro sabotaggio sono uscite pian piano tutte le magagne di questo progetto, che se l'avessero costruito subito, quella roba là, se l'avessero fatta subito, le magagne sarebbero venute fuori, ma dopo, invece grazie ai Notav vengono fuori prima, appunto. Comunque il cambio di tracciato e anche tutte queste panzane, poi nel libro le spiego, insomma, del progetto low cost, queste cose, sono tutte delle curvature dello spazio dell'avvertenza determinate dalla continua pressione del movimento, nel senso che loro sono costretti a cambiare i tracciati, sono costretti a cercare di mitigare, sono costretti a far vedere che spendono di meno, ma sono costretti dalla lotta. Poi il movimento non accetta nemmeno quelle mediazioni lì, però intanto quelle mediazioni sono vittorie. Il fatto che cerchino di appunto far vedere no, ma il primo progetto era sbagliato, era molto costoso, era molto impattante, ma quello di adesso no. Però quando dici ma quindi scusate, allora il primo progetto faceva bene in ottavo opporsi, li balbettano. Esposito è un esperto di questa roba, no? Esposito ti dice no, ma questo non è più il primo progetto, certo il primo progetto era sbagliato, quindi avevano ragione in ottavo. No, però in realtà avevano ragione di notare, e ce l'hanno ancora anche contro questo progetto che è demenziale. Vogliono fare solo il tunnel di base senza fare il resto della linea, vogliono fare solo il tunnel di base, vogliono solo bucare la montagna e tutto il resto praticamente è scomparso intorno pezzo dopo pezzo, addirittura tutta la parte francese del progetto. I francesi dicono ci pensiamo dopo il 2030. Cioè non c'è niente, è tutto evanescente, c'è solo questa volontà di fare il buco. Uno, perché bisogna far lavorare le aziende e le cooperative amiche, no? E ci sono gli appalti e c'è la mangiatoia, la greppia, però c'è anche un'altra cosa, e l'ha detta molto bene un PM di Torino, il PM Marcello Maddalena, nella sua arringa finale a un processo molto importante, ha detto lo Stato deve tenere il punto. A questo punto lo Stato ha deciso di fare questa cosa, non può farsi costringere a non farla, perché ne deriverebbe, lo riporto testualmente nel libro, adesso sto riassumendo, ne deriverebbe una grave crisi di legittimità dei poteri. Ok? Quindi quella roba va fatta, non stiamo qui a disquisire utile o inutile, si è deciso che si fa e si fa. Vogliono tenere il punto, perché se questa cosa si fermasse sarebbe una vittoria del movimento Notav, e loro questo non lo possono riconoscere. In alcun modo non sono in grado di riconoscere le vittorie parziali, figurarsi se sarebbero in grado di riconoscere una vittoria totale e completa del movimento Natav. Quindi questa cosa la dovranno sempre negare, la dovranno sempre rimuovere, man mano che i pezzi di quel progetto si sbricioleranno uno dopo l'altro, ma dovranno sempre far vedere che tengono il punto. Da qui la spropositata quantità di repressione che viene rovesciata addosso ai valsusini. In Val di Susa veramente da diversi anni si sperimentano nuove tecniche giuridiche di repressione, nuove idee di concorso morale in reato, estensioni incredibili del reato associativo e misure cautelari usate come, siccome non, cioè non, la riottosità della valle non è stata domata, c'è questa ripicca delle misure cautelari continue, della graniuola, della sassaiola di misure cautelari, fogli di via, obblighi di dimora, obblighi di firma, divieti di dimora, arresti domiciliari. E nel libro, verso la fine, racconto che sta cominciando questa tendenza alla disobbedienza civile nei confronti delle misure cautelari. E appunto in queste settimane, nelle ultime settimane, diciamo, il nome simbolo di questa disobbedienza alle misure cautelari ingiuste è Nicoletta Dosio. Nicoletta Dosio che da un mese e passa sta evadendo tecnicamente perché non accetta gli arresti domiciliari. Una donna di 70 anni che sta evadendo tutti i giorni, perché ogni volta che lei non rispetta gli arresti domiciliari sta evadendo e sta mettendo a procure e tribunali di Torino in una situazione di scacco matto, perché davvero non sanno cosa fare, come gestirla. Non è più l'unica che lo fa, ci sono anche altri, c'è Andrea ha detto Palestina, che adesso è anche lui è un altro di questi che a Bologna sarebbero degli Umarell e lì è un guerrigliero, ecco, che ha deciso di non rispettare la sua misura cautelare. E lì però lo Stato deve tenere il punto, non vogliono arretrare. Anche quando ormai tutte le ragioni che erano usate per giustificare quell'opera si sono rivelate infondate e grottesche, le previsioni che facevano sui traffici, dicevo all'inizio. Ecco, una cosa è la spettacolare vacuità delle ragioni del sì. Non mi riferisco solo al referendum, parlo proprio del sì alla Torino-Lione. Già nel 2006 fu fatta una ricerca accademica su appunto com'erano date le ragioni del no e le ragioni del sì sui principali giornali italiani. Chi fece quella ricerca, era un docente che si chiama Calafati assieme ai suoi studenti, rimase sorpreso in corso d'opera, non era partito con una presa di posizione notabile lui, ma rimase sorpreso in corso d'opera nel vedere che sui giornali le ragioni del sì non c'erano, non venivano date motivazioni vere, si diceva non si può fermare il progresso, il Piemonte non può rimanere isolato dall'Europa, erano tutti slogan ma che non venivano mai sostanziati da nulla, mentre le ragioni del no, che pure i giornali censuravano, ma quelle volte che riuscivano a filtrare erano tutte basate sull'inutilità dell'opera, preoccupazioni di carattere ambientale, lo sperpero di denaro pubblico, c'erano cifre, c'erano dati, c'era competenza. Questa tendenza è continuata. Credo che la frase più clamorosa sia quella di Cota, quando era, ve lo ricordate Cota? Quando era governatore del Piemonte, che disse la TAV è necessaria perché porterebbe a una apertura psicologica del Piemonte all'Europa. Che per me rimane, questa è sublime, forse è la frase più bella che sia stata detta per giustificare il TAV, ma tante altre idiozie sono state, c'è stato uno sperpero di cazzate, diciamo così, in ferrarese si usa l'espressione un strussi a cazzato, cioè proprio uno sperpero, uno scialacquamento di cazzate, perché sono stati veramente molto, c'è stata una prodigalità nel dire queste cose, e la cosa che dimostra anche la lotta notava è la trasversalità politica di questo. Nel libro non faccio alcuna differenza tra governo Berlusconi, governo Prodi, governo Monti, governo Renzi. I governi dall'altra parte ruotano, cambiano. Però è tutto uguale, il movimento Notav continua a opporsi ed è sempre il movimento Notav, mentre senza neanche starlo a rimarcare troppo, Dall'altra parte nel libro faccio vedere che cambiano i premier, è diverso il nome dei ministri, dico il ministro dei trasporti, cioè, ma scusa, ma 50 pagine prima hai nominato il ministro dei trasporti, era un altro, no? Cioè, perché tanto sono maschere dello stesso potere, uguale, centrodestra e centrosinistra, su Staverno assolutamente, anzi il centrosinistra di più perché ci lavoravano le cooperative amiche, no? Qualunque di quelle grandi opere che sono associate automaticamente all'assurdità, il ponte sullo stretto, la Torino-Lione eccetera, ci troverai sempre una sigla, che è CMC, la CMC di Ravenna, no? Chiamata ancora cooperativa muratori e cementisti, in realtà una gigantesca, una multinazionale del cemento, dell'asfalto, del consumo di suolo e tutto quanto, che ha sedi in tutto il pianeta e che è dappertutto, anche nel consorzio Cavet che ha fatto la Bologna-Firenze, quindi quella devastazione ambientale là, c'era la CMC di Ravenna, nella Torino-Lione il cantiere lavora la CMC di Ravenna, la società del ponte sullo stretto, la CMC di Ravenna, che si dice Ravenna, ma c'ha sedi in Angola, in Massachusetts, dappertutto, ed è diventata talmente grande che la settimana scorsa uno dei suoi massimi dirigenti ha rilasciato un'intervista dicendo probabilmente diventiamo società per azioni, perché ormai siamo troppo grandi per essere una cooperativa, però lo dice nel 2016, ma è un'intervista che poteva essere pubblicata tranquillamente nel 1992, no? Perché questo equivoco che le cooperative, quindi si conserva ancora quell'alone, no? le cooperative, ma non, con il movimento cooperativo, con le motivazioni per cui era nato, non c'entrano più assolutamente niente, altri sono dall'altra parte della barricata. E del libro in sé non abbiamo ancora parlato. Non c'ho voce, quindi. Vabbè, comunque voglio dire semplicemente una cosa: noi il 27 saremo a Roma a una grande manifestazione dove insieme al movimento NOTAV, che sarà deciso quest'estate, andremo a portare un altro no in quella piazza. Le cose che sono state dette qui oggi per me sono, essendo stato in Valsusa diverse volte, essendo stato a fianco a loro, ma la cosa che più mi ha scioccato stasera è quel punto che Roberto dice, in cui dice perché lì sì e qui no. È una domanda che dovremmo porre un po' tutti quanti, questa cosa qui. Perché spesse volte succede, capito, che si parla di altro, ma quando poi si tocca il proprio orticello non si mette in discussione. Allora io, essendo stato in Valsusa, ho visto, ho toccato con mano quello che significa i diversi soggetti che oggi portano avanti quella battaglia. Per noi, venendo dagli anni 70 in poi, per noi il movimento della Valsusa è stata una scuola che ha saputo dare una continuità agli anni 70 e l'ha riportata dagli anni 90 in poi, capito, ancora oggi è una scuola di come noi dovremmo agire, di come noi dovremmo operare sui propri territori. Quando parliamo perché lì sì, io ho toccato con mano, forse chi c'è stato in Valsusa l'ha toccato con mano, non è semplicemente un sì lì perché si è testardi, ma è anche perché, capito, la gente del posto ama il proprio territorio, ama la propria conflittualità di creare in quel territorio e non vuole oppressori sostanzialmente. Rispetto a questo, quella gente, quelle persone che stanno in Valsusa, capito? E li vediamo ogni giorno, e non a caso veniva citata prima Nicoletta D'Osio, tanto per capirci, perché una donna di 70 anni che si oppone a un regime, che è il regime che noi conosciamo tutti quanti i giorni, di un arresto domiciliare, perché ha condiviso, ha partecipato alle iniziative per difendere il proprio territorio, la propria storia, e quindi viene messa agli arresti domiciliari, e lei la cosa che dice qual è? Io non voglio essere e non voglio stare agli arresti domiciliari nella mia casa. Se allarghiamo questo tipo di discorso, che non voglio stare agli arresti domiciliari nella mia casa, lo allarghiamo sul territorio, io non voglio essere sul mio territorio carcerato, e la Valsusa è un luogo carcerato. Se voi andate in Valsusa è difficile che riuscite a passare con una macchina senza essere fermati, C'è una militarizzazione incredibile, cose che stiamo vedendo pure oggi qui in Bologna sostanzialmente, sulle lotte che si stanno producendo e cose del genere. Oggi passa tutto attraverso un discorso di militarizzazione. Allora o c'è una risposta oppure ce la prenderemo a quel paese sostanzialmente, a quel posto sostanzialmente, da questo punto di vista. La Valsusa è una scuola e il 27 noi saremo insieme ai valsusini, dove quest'estate, durante il campeggio di Valsusa, si è deciso che una settimana prima del referendum no TAV saremo tutti quanti a Roma a portare un altro no. Ma quel no è un pieno di significato, non è solo un no rispetto al discorso della Costituzione, ma è un no che mette in discussione quello che questo governo sta facendo, che va dalle grandi opere, che è il discorso della TAV, lo stretto sul ponte di Messina, la Salerno-Reggio Calabria, che è ancora lì, ancora non è finita dopo tanti tantissimi anni, lo sperpero di denaro pubblico che viene fatto. Noi vorremmo sapere chi è che decide tutto questo sperpero di denaro pubblico. Allora, su questo penso che ci dobbiamo porre dei problemi ed essere attivi anche noi, perché se no rimaniamo a dire lì sì e qui no. Il discorso che faceva Roberto prima, non voglio continuare molto, non voglio farlo molto lunga, quello quando è successo sulla storia tra Firenze e Bologna ci deve far riflettere. Quello che sta succedendo oggi anche con Nonus ci deve far riflettere. Però se non ci muoviamo, non ci intestardiamo anche noi, come fanno la gente della Valsusa, rischiamo che poi queste opere ci passano sulla pelle, ci passano sulle spalle, però noi continueremo a pagare. Grazie. Domande, interventi, perplessità, curiosità, contumelie, siamo qua. Qualunque cosa. Mentre ci pensate, un altro piccolo, come dire, un'altra piccola analisi che Roberto ha messo sul libro e che è forse un'altra di quelle peculiarità che ci hanno portato fino ad oggi, che adesso l'ha sfiorato Roberto mentre ne parlava, ma comunque la divisione tra buoni e cattivi. L'esempio che faceva andrebbe forse contestualizzato, è chiaramente vero, cioè c'è stato non solo uno, più episodi in cui degli anziani, quindi oltre i 70 anni, si sono vestiti di nero, sono andati al cantiere, hanno tirato i fuochi d'artificio, fermati, smascherati dai poliziotti, lasciati andare, perché il problema è che quando si trovano davanti a queste situazioni vanno in imbarazzo, vanno in difficoltà, perché poi arrestare queste persone significa andare a mettere in forza tutto quello che loro hanno sempre detto, che è quello che in Valle di Susa esistono due tipi di opposizione: quella pacifica fatta dagli abitanti della Valle di Susa che sfila con le bandiere no TAV, con i bambini, con gli anziani, e poi quella fatta dai cattivi, dai black bloc che si vestono di nero, tendenzialmente che arrivano dalla Francia, dalla Grecia e dalle metropoli, e che fanno delle cose tremende, cattive, brutte. Questa cosa qua la portano. C'è stato l'Apocalisse nei giorni della Maddalena, quando il 3 luglio, quando c'è stato l'attacco al cantiere, ma già dal 2005 ce la portiamo dietro, che in Valle di Susa arrivano i cattivi, tutti i facinorosi del mondo. Non è così, nel senso che quando arrivano le persone da fuori sono ben accolte, siamo contenti che tante persone vengono a darci una mano di qualunque età, con qualunque idea, basta che ci si batte contro questo treno. Le modalità della lotta si decidono in assemblea, e in assemblea si è anche deciso di arrivare al sabotaggio, ma non perché pensiamo che quella è l'unica forma di lotta utile per fermare quest'opera, ma semplicemente perché fai dei livelli, nel senso che inizi a fare un'opposizione che è sui temi, su quello che è sono i problemi tecnici, i problemi di sostenibilità, di impatto ambientale. Non ti ascoltano, fai un'opposizione istituzionale con i sindaci di tutta la valle che votano in consiglio comunale decine di volte, l'hanno fatto tutti gli anni, passa una delibera in cui i comuni dicono che sono contrari a quest'opera per tutta una serie di motivi e non ti ascoltano. Fai delle manifestazioni dove arrivi a portare decine di migliaia di persone in una valle che ne conta 60.000. Quindi noi alle prime manifestazioni, quando ne portavamo 10.000, i giornali dicevano sì, sì, sono poi 10.000, non è questo numero, ma su 60.000, è come se in Italia su 60 milioni di persone 10 milioni in un colpo solo scendono in piazza. Siamo arrivati a fare delle manifestazioni con 60.000 persone, con persone che arrivavano anche da fuori, con la serrata della Valle di Susa, cioè fabbriche ferme e negozi chiusi. Sempre pagine che vi consiglio, leggete questo libro perché sono riportate in maniera dettagliata e molto ben scritta. Ne abbiamo fatte veramente tutte. Ci siamo ripresi il cantiere quando è stato il momento di riprendere, ma la risposta è stata di aprirlo da un'altra parte. Abbiamo rifatto le manifestazioni, la risposta è stata non ce ne frega niente, continuate a manifestare, noi andiamo avanti. A quel punto alzi il livello, sei obbligato ad alzare il livello. Il livello significa impedire di far loro queste azioni, occupare i terreni dove loro vogliono venire. Loro arrivano e ti cacciano via, allora a quel punto lì devi cercare di difenderti quando ti cacciano, e poi devi cercare di dimostrare che la tua opposizione non è un'opposizione solo di testimonianza, come loro vorrebbero, e quindi io lavoro nel mio cantiere, tu fai la manifestazione nel tuo paese perché sei libero, perché il paese è democratico e ti dà la libertà di dissenso, ma invece andare proprio lì dove c'è il problema e andargli a dare fastidio impedendogli di lavorare in maniera tranquilla. Perché loro hanno iniziato a lavorare e l'unico modo per continuare a fermarli è andare lì dove loro ci sono e continuargli a dargli fastidio con le armi che noi abbiamo, che sono chiaramente i nostri corpi. Non abbiamo mai pensato a chissà che forme di lotta, se non i nostri corpi da mettere in gioco, quindi nel momento in cui sei sul terreno in cui loro stanno arrivando, tu ti metti col tuo corpo e aspetti che qualcuno arriva o ti manganella o ti porta via con la forza, ma intanto ci sei tu, e se sei in tanti diventa un problema. Oppure cercando di andare lì a tagliare le reti, andare lì a tirare dei fuochi d'artificio che vanno in aria e che sicuramente danno del fastidio. Ma anche questa è una delle cose che bisogna sempre poi raccontare, specialmente quando si è fuori. Noi abbiamo avuto dei feriti anche gravi all'interno del nostro movimento. C'è chi ha perso un occhio, chi ha perso un orecchio, l'udito dentro dell'orecchio, chi è rimasta zoppa per più di un anno, anche questi sono episodi raccontati. Luca Ba, sappiamo benissimo quello che è capitato a Luca, e lì sì, un miracolo, è riuscito a tenercelo ancora tra di noi. Dall'altra parte non succede così, perché quando capita che si tirano le pietre, e le pietre si tirano, non ci vergogniamo a dire che le pietre si tirano, e le tirano un po' tutti in certi momenti. Le pietre, a un certo punto, quando tu fai tutte queste cose e nessuno ti ascolta, allora per farti ascoltare, perché quando tu tiri le pietre, allora parlano di quel problema, allora inizia a esserci un problema di ordine pubblico dove loro sono obbligati a parlarne, sicuramente in modo negativo, ma ne parlano, e chi sta dentro ha difficoltà a stare lì dentro. Quindi arrivi a un livello in cui tu dici ok, in certe occasioni facciamo questa cosa, loro hanno gli scudi, i caschi, non si fanno assolutamente nulla, però intanto è un'opposizione concreta che crea alcune crepe in un contesto che è quello dell'Italia, in cui le opposizioni sono, come sappiamo, tendenzialmente di testimonianza. Il tirare le pietre, l'arrivare a pensare al sabotaggio, quando queste modalità di lotta sono prese in assemblea, io la ricordo sempre, l'assemblea del dire il sabotaggio è una pratica che possiamo utilizzare, in quanto il danneggiare un macchinario non significa far del male a nessuno, perché poi l'essere umano, tutti abbiamo il rispetto dell'essere umano in sé a prescindere, ma il dare fuoco al compressore, cosa che è successa, ha fatto sì che alcuni ragazzi venissero accusati di terrorismo, condannati, con Caselli che diceva che ormai la Val di Susa ha preso una deriva terroristica pericolosa, e anche questo è un altro dei mille capitoli della nostra lotta. L'abbiamo preso in assemblea, tutti tutti insieme, non l'ha presa un gruppo ristretto di avanguardia che si veste di nero e si nasconde nei boschi. Si è presa in assemblea, poi per fare quell'azione lì probabilmente ti devi nascondere nei boschi quella sera e cercare di non farti beccare, ma quando ritorni, ed è per questo che si parte e si ritorna tutti insieme, perché quando ritorni la gente ti sta aspettando e sta ed è con te a difenderti in quell'occasione. Questo è una delle situazioni che destabilizza, il vedere che il movimento No TAV non è riuscito a dividersi in quelli cattivi e in quelli buoni, ma anzi si è cercato sempre più di mischiarci, fino ad arrivare con gli anziani che si vestono di nero e vanno a fare quelle azioni solo loro, perché poi la regola è quella sera vanno solo chi ha da questa età in avanti, nessun altro, perché quando ci fermano non possono trovare nessuna scusa per dire ah no, ma c'era il ragazzino che li guidava, perché questo arriva dalla città e ha idee un po' calde, queste cose qua, no, vanno loro, e questo è una di quelle situazioni che chiaramente ha destabilizzato la controparte. E oggi quello che si diceva di Nicoletta, che a 70 anni si evade e non viene arrestata, la verità è questa, che sono talmente in difficoltà nel gestire una situazione di questo tipo con una signora di 70 anni, un insegnante della Valle di Susa che ha sempre insegnato in un liceo, che evade dagli arresti domiciliari, e non hanno il coraggio di arrestarla perché potrebbero creare appunto un caso abbastanza difficile poi da gestire mediaticamente. Questo è un'altra delle forse motivazioni importanti che ci hanno portato ad oggi. Qualcuno ha già letto il libro? Volevo fare una domanda a te riguardo a quello che dicevi, perché là sì e qua no, sì, parlando degli anziani. Sì. E poi una considerazione che faccio io, c'è una risposta. Uno, perché l'ha detto il compagno di Torino, un po' li conosco perché ci ho passato vari anni, abitavo a Veneria verso quella zona e dunque l'ho presentato. La realtà è perché lì, come detto prima, sono due fattori, due binari, uno è perché è radicata e uno è perché è radicale. La radice è uguale, radicato perché è sentito dalle persone che vivono lì, radicale perché c'è un'idea politica forte sviluppata in sud, cioè della difesa di un territorio che non è solo è casa mia, ma è perché l'ambiente va difeso. L'altra questione è che là, come ha detto giustamente il compagno, non c'è delega, cioè la gente si è rotta le palle di delegare anche a chi ti sembra più vicino politicamente. Nelle realtà cittadine, come la specie di Bologna, spesso avviene che questo non c'è più. Anche i movimenti chiamati antagonisti poi hanno atteggiamenti che con il partito o con l'istituzione non hanno la stessa capacità che si è avuta lì a Torino. Non è che lì sono dei geni, è che semplicemente, al di fuori che c'è un territorio che permette anche alcuni azioni, è quello appunto, zona, chiaramente, ma però c'è la capacità dell'individuo di aver capito, ogni individuo, ogni cittadino ha capito della propria dignità e dei propri diritti, e si muove individualmente per arrivare poi collettivamente a fare delle cose. La questione è che molte città, per varie diversificazioni che sono anche dovute alla struttura, chiaramente al controllo, ma sono anche dal fatto che non si tende a fare qualcosa perché ci si sviluppa individualmente, ma in genere si cammina insieme alla massa, ci si muove solo in quell'occasione. E ancora peggio, lo vediamo con l'esempio che facevi te, che mentre che il cittadino anziano là dice non guardo il lavoro ma interagisco, cioè lancio il sasso, qua specialmente la vecchia classe, quella che poi ha fatto la guerra, perché qua è una città importante, sono allineati col partito, con l'amministrazione. Questa è una domanda che rispondo a te perché magari conosci meglio, hai un focus migliore, ma è, secondo me è una delle risposte. Bravissimi, hai notato, Allora, alcune delle tue risposte io le converto in domande nel libro. Perché è radicale? Ma perché è radicale? Perché è radicato? Ma perché è radicato? Cioè, nel senso, l'indagine che faccio nel libro, sempre con gli strumenti che sono i miei, quelli del narratore, quindi raccontando storie, è quanti fattori, quanti filoni, quante influenze determinate anche dalla struttura della valle, perché la storia è fatta di geografia anche, no? E quale composizione di classe hanno portato alle migliori condizioni possibili in quel territorio perché il movimento fosse radicale, radicato, mettesse in discussione la delega e tutte queste cose. Sicuramente uno dei fattori è che lì non c'è stata l'egemonia del PC. Perché il PC in Emilia, in Toscana, in Umbria, in questi posti qui, ha praticato la delega ai suoi livelli più alti, nel senso la base spoliticizzata e ha sempre ragione il segretario, ok? Chiunque sia, e lo vediamo anche nel riflesso di molti che stanno con Renzi oggi, perché il segretario è lui, ma prima era Bersani, erano bersaniani, e prima ancora magari non erano epifaniani, perché quella è stata una parentesi un po' così, quella di quando Epifani era segretario del partito, no? Però questo riflesso del culto del capo, se l'ha detto il compagno segretario vuol dire che è giusto, se l'ha detto il compagno sindaco vuol dire che è giusto, ha portato nel corso degli anni, man mano che il partito si imbolsiva, diciamo così, la conflittualità calava, la realpolitik era egemone, si creava anche un modello di capitalismo che aveva come perno, appunto il cosiddetto modello emiliano, che aveva come perno l'egemonia politica del PC. Alla fine quello che è successo nel popolo del PC è stata una crescente spoliticizzazione. Non si parlava mai davvero di politica, si parlava di pettegolezzo politico, tutte le volte, oh, lui lì mi sta sul cazzo, quello là, eccetera eccetera, e quella base lì è stata privata della possibilità di avere qualunque chiave di lettura del mondo, di critica dell'economia politica, di comprensione delle dinamiche di classe, di come si sta ristrutturando l'industria, di che cosa diventava la società e tutto quanto. Queste erano cose di cui nella base del PC non si parlava. Io lo so, sono cresciuto in questo mondo, è la mia placenta il modello emiliano, e questo anche che dico nel libro, no? Il fatto anche questa frustrazione qua, cioè vengo da una famiglia che per cui il PC è stato importante e tutto quanto, e posso dire con cognizione di causa, perché ho anche l'età per ricordarmelo, che nella base del PC, in realtà, finiamola anche con i bei tempi eccetera, nella base del PC non si discuteva mai di un cazzo, davvero. La base è stata sistematicamente spoliticizzata, vieni a fare le crescentine alla festa dell'unità, questa è la tua militanza, ok? Questo ha fatto il PC, queste sono le responsabilità del PC, di aver creato nelle zone dove aveva l'egemonia, di aver creato una società conformista fino al midollo, conformista, codina, anche reazionaria, con un culto della gerarchia, del capo, con un culto della delega deresponsabilizzante. Il partito dice che, il sindaco dice che, il segretario dice che, della finta partecipazione, capito? Delle truppe cammellate ai congressi di sezione, di gente che aveva la tessera ma non si faceva mai vedere e andava solo al congresso di sezione per votare in automatico, di default, senza conoscerne una sola riga, la mozione principale della maggioranza del partito, quella per cui il segretario di sezione diceva devi votare questa. E le grandi opere in Emilia passano perché la mentalità è quella lì. I sindaci dei comuni del versante toscano, che all'inizio erano contrari all'alta velocità Bologna-Firenze, furono presi da Vannino Chiti, presidente della regione toscana del PDS, ok? Poi anche ministro, è stato eccetera. Vannino Chiti li portò a Roma a parlare con le alte gerarchie, i compagni che contano, e tornarono che la pensavano al contrario di quando erano partiti. Questa è una roba, cioè, ti possono dire chiunque abbia provato a opporsi alla Bologna-Firenze. Questa è una cosa che dico all'inizio, però appunto questo è il motivo per cui qui no, è uno dei motivi per cui qui no, diciamoci la verità, è uno dei motivi per cui molto probabilmente passerà questa porcheria del passante di Bologna, del raddoppio della tangenziale, e diranno pure che hanno coinvolto la cittadinanza, che hanno ascoltato tutti, ed è una frottola chiaramente, no? Questo era, però là, perché l'indagine che faccio in Valsusa è cioè cosa è successo in Val di Susa e soprattutto che cos'è la Val di Susa, perché anche chi è solidale con quella lotta e simpatizza, in realtà non sa che cos'è la Val di Susa. Cioè, molti anche che insomma sono solidali eccetera, però le storie che hanno plasmato la valle non le sanno. Il fatto che tutto ciò che riguarda la Val di Susa nei millenni ha a che fare con i trasporti, che c'è una sensibilità fortissima sui trasporti, perché è sempre stata una valle di transito, di valico, di sconfinamento, una valle che è infrastrutturata da sempre, e quindi loro cioè, ci giocano la controparte dicendo avete così tante infrastrutture, ormai avete fatto 30, fate 31, tanto ormai siete già pieni di piloni, di svincoli, di cose così, no? Che è il ricatto da non accettare, no? Perché se io ho la febbre, non è che mi devi dare anche una bastonata sulla nuca, tanto ormai c'hai già la febbre, capito? Pam, così, no? E quello è il tentativo di dire no, ma insomma non è mica una valle poi così bella, a parte che non è vero, perché nonostante infrastrutturata ha veramente delle parti bellissime la Val di Susa, però appunto l'importanza del trasporto, prima si parlava della resistenza, perché anche da noi c'è stata la resistenza, cazzo, anzi c'è questo culto della resistenza a parole, no? Questo antifascismo finto di cui ti ricordi solo l'anniversario di Portalame il 25 aprile, no? Anche da noi c'è stata la resistenza, però cioè, non è che c'è, capito, perché qua c'è stata la resistenza e non vedo tutta questa grandissima carica di conflittualità nella società, no? Anche l'antifascismo si è abbastanza sdilinquito, no? Ma la resistenza che c'è stata in Val Susa è stata molto particolare e diversa da quella che c'è stata nel resto del nord Italia, perché c'era una ferrovia internazionale, la Torino-Modane, l'attuale linea storica, e tutta la resistenza verteva sul sabotaggio di quella ferrovia perché non potessero usarla i tedeschi, quindi il conflitto era sui trasporti anche lì, ed è stata una resistenza feroce nel confronto con i tedeschi. C'erano 10.000 tedeschi in Val di Susa per proteggere la ferrovia, con le unghie e con i denti, perché era assolutamente necessaria per i loro spostamenti, per le deportazioni, per i vettovagliamenti, per le armi, per tutto quanto. E il ruolo ad esempio dei ferrovieri valsusini nella resistenza è una pagina incredibile, no? Erano precettati militarmente e a un certo punto c'è stata una diserzione di massa di tutti i ferrovieri che sono scappati e si sono uniti alla resistenza. I tedeschi da solo non potevano far funzionare la ferrovia, no? Il confronto è stato durissimo perché è una valle stretta e lunga, come ricordava Maurizio, e quindi con la ferrovia che tagliava a metà, e quindi non c'era anche quella la lontananza tra partigiani e tedeschi che c'è in molte zone, no? Fenoglio, nei suoi, che pure è Piemonte ma sono le Langhe, tutt'altro territorio, nei suoi romanzi i partigiani compiono degli spostamenti anche di chilometri e chilometri senza mai incontrare un tedesco, perché i tedeschi, i fascisti sono nelle città, sui montani sono i partigiani e ogni tanto c'è il rastrellamento. In Val di Susa non era così, i partigiani erano costantemente braccati e costantemente andavano a sabotare la ferrovia, non c'era, era tutto vicino, si era tutti molto appresso gli uni agli altri, no? Questo ha fatto sì che quella resistenza sia stata diversa da molte altre, no? Ed è un lascito a cui si riesce a risalire molto facilmente, lo si legge nel territorio, e qui da noi è più difficile, soprattutto fuori città, leggere nel territorio, a meno che uno non abbia messo un cippo, però anche un cippo è una commemorazione, ma non vedi proprio nella conformazione del territorio, ti immagini subito come deve essere stata la guerra partigiana lì. In Val di Susa sì, è automatico, e quindi l'eredità è molto più semplice da ricostruire e rivendicare. Ma poi ci sono tanti altri filoni che ricostruiscono il libro, tutta la seconda parte che si chiama Biogramma e in buona sostanza la genealogia del movimento Notav, per come sono riuscito a ricostruirla, parto addirittura dagli anni 70 dell'Ottocento, racconto lotte operaie, racconto il cattolicesimo del dissenso, racconto pratiche radicali, il movimento non violento, la teologia della liberazione, sono tutte cose che in Val di Susa hanno avuto e hanno un'importanza, cioè sono molto rilevanti e sono delle anime del movimento Notav che è molto facile riconoscere subito. Era più difficile andare all'indietro a rintracciarne appunto il lignaggio, la genealogia, però le vedi, sono lì, Perino, Cioè, Perino è stato uno dei più grandi animatori del movimento non violento e per l'obiezione di coscienza nei primi anni 70 in valle. Se tu digiti Alberto Perino nell'archivio storico della stampa, ti vengono fuori un sacco di articoli degli anni 70 di lui che viene arrestato, di lui che viene processato, che fa delle azioni clamorose come quella di andare a impedire il tiro al piccione in un poligono di tiro di Orbassano. Cioè, viene anche da lì il movimento notave, tutta questa stratificazione di storie che io cerco di raccontare. Però, appunto, io racconto storie, ho fatto l'inchiesta, però poi non la restituisco in modo saggistico, cioè non è il mio lavoro, non ti pubblico il testo risultato della ricerca, non ti scrivo il saggio, il trattato, cos'è? Io racconto storie, il mio lavoro è disseppellire e riproporre storie, di metterle in collegamento tra loro, unire ciò che appare separato e separare ciò che appare diviso, è una delle poetiche di Buming ed è quello che ho fatto anche in questo libro, dove cerco di raccontare queste storie qua con ogni mezzo necessario, nella maniera che reputavo migliore possibile, con ogni mezzo necessario. Quando noi diciamo che vogliamo raccontare storie con ogni mezzo necessario, diciamo sempre, attenzione però, che quel necessario è importante, cioè non con ogni mezzo, come mi tira, come mi viene in mente, no? Il trucchetto, l'espediente, no, con ogni mezzo che io sento intimamente necessario, una scelta espressiva che io giudico indispensabile in quel momento per raccontare questa storia. E senza porsi alcun problema di generi, di tipologie testuali, ma scrivendo, cioè usando ogni volta la tecnica che ti sembra la più adatta. E da qui nasce questa cosa di questa non tipologia di libro che pratichiamo ormai da diversi anni a questa parte, che in mancanza di una definizione migliore chiamiamo con una parafrasi o con una perifrasi, una circonlocuzione, che è oggetto narrativo non identificato, cioè dove dentro c'è di tutto, non fiction raccontata come un romanzo, un'inchiesta raccontata come un poema epico o viceversa, un poema epico raccontato come un'inchiesta, un viaggio che non promettiamo breve viene da lì, da questo esperimento. Iniziamo con Asce di guerra. Nel 2000 scrivevo Asce di guerra insieme a Vitaliano Ravagli e già era un libro molto ibridato, dentro c'era il saggio, l'autobiografia, il romanzo, c'erano tante cose, però non erano ibridate davvero, erano alternate, erano giustapposte, no? Il montaggio era molto meccanico, infatti noi siamo molto autocritici nei confronti di quel libro, no? Diciamo, non era proprio tecnicamente riuscito, poi c'è chi lo ama per le storie che vengono raccontate, ma tecnicamente il montaggio, le scelte, noi siamo molto critici su quel libro, però nel corso degli anni ci ha messo di buona lena a provare a perfezionare quella formula e negli anni 10 soprattutto, dal 2010 in avanti, abbiamo pubblicato diversi libri come solisti che sono dei tentativi di portare un passo oltre quel tentativo che avevamo fatto in Asce di guerra, cioè appunto dell'oggetto narrativo non identificato, del raccontare con ogni mezzo necessario, del miscelare fiction e non fiction, una saggistica scritta come se fosse narrativa, una narrativa che però è tutta documentata, capito? Un romanzo dove tutto è vero e riscontrabile, però con degli inserti di finzione che vengono annunciati come tali e spieghi anche perché li usi. Insomma, sono cose che è più facile leggere che sentirsi spiegare, ecco, però dai, il sentiero degli dèi, il sentiero luminoso, Timira, Point Lenana, sono gli esperimenti che abbiamo fatto dentro questa sorta di terra di nessuno. Tra l'altro io da 2 anni dirigo anche una collana per un piccolo editore, Alegre, questa collana si chiama Quinto Tipo, dove cerco questo tipo di narrazioni ibride qua. Ecco, secondo me un viaggio che non promettiamo breve è in questo momento l'esempio più avanzato, almeno per quanto riguarda il mio lavoro, cioè l'esempio, insomma, quello più oltranzista di ibridazione. Dentro, per dire, c'è un filone horror che ho voluto mettere, no? Per rendere l'idea della mostruosità del cantiere, c'è un filone horror ispirato a Stephen King e a Lovecraft, e addirittura c'è un mio dialogo immaginario con Lovecraft, che è morto nel 37, quindi c'è una cosa medianica, un mio dialogo immaginario con Lovecraft dove io ho dei dubbi sull'inserire in un libro dove tutto è vero, tutto è documentato, tutte le fonti vengono dichiarate, però inserire ogni tanto degli squarci visionari e del terrore soprannaturali, addirittura altre dimensioni, no? E dico Lovecraft, ma come faccio? A me è venuta questa idea, perché già voglio dire, quando il Movimento Notavo organizza le visite al cantiere, le chiama le visite al mostro, quindi già c'era questa roba del mostro, il cantiere come mostro, però come faccio a inserirle in un libro dove tutto deve essere verificabile, vedere che io ho documentato tutto eccetera, e lui mi dà un consiglio su come incastonarlo dentro, e io lo faccio con alcune eccezioni, perché poi mi prendo la libertà di disobbedire a Lovecraft su alcune cose, però appunto c'è addirittura un filone horror, proprio di romanzo del terrore. Una cosa che ho detto in un'intervista alla Valsusa, al giornale valsusino, recentemente assieme alla mia compagna ci siamo guardati tutti in una volta le 8 puntate di una serie che c'è su Netflix che si chiama Stranger Things, non so se qualcuno qui l'ha vista. Ecco, io avevo già consegnato il libro, e era già in stampa, e guardando Stranger Things dicevo no, è pazzesco, è incredibile, c'erano delle atmosfere uguali, c'erano delle scene, io dicevo ma è la Val Clarea, sembrava la Val Clarea, un po' come quando ho visto True Detective e sembrava la zona di Gorino, infatti poi si è visto. Ogni tanto c'ho queste reminiscenze, questi strani déjà vu, però in quel caso lì veramente ci sono delle scene horror nei boschi nel libro che sono, cioè come atmosfera le ho ritrovate in quella serie TV, lui, per dire che non è un normale libro sui Notav. Allora, sui Notav sono scritti tanti libri, penso almeno un centinaio, anche pregevoli, che mi sono stati molto utili. Alcuni li ha scritti il movimento stesso, appunto dal basso, spinta dal basso, ha pubblicato due libri molto importanti. Fuochi nella notte racconta in forma diaristica, mettendo assieme tutti i comunicati, tutti i volantini, le testimonianze, l'inverno 2010, che è il cosiddetto inverno delle trivelle, in cui si dovevano impedire i sondaggi, i carotaggi, no? E questo è un esempio, ne sono usciti diversi di instant book in senso buono, in un'accezione positiva, di libri che fotografavano una fase del movimento appena trascorsa, che sono fondamentali proprio per creare il reperto, il documento, che poi verrà usato in futuro. Poi sono usciti dei libri più tecnici, che spiegavano perché il progetto Torino-Lione è sballato, dei libri più sull'aspetto repressivo, oppure delle indagini sociologiche e antropologiche del movimento, oppure degli studi su come i media rappresentano il movimento. Tutti questi libri qua formano un corpus ormai molto vasto, però mi sembrava che mancasse un libro come quello che avevo in mente, appunto, che usando tutte queste tecniche che ho detto ricostruisse la storia, l'epopea di questi 25 anni, ma anche andando indietro nel tempo, molto indietro nel tempo, per raccontare la specificità della Val di Susa che ha prodotto questa soggettività Notav, e al tempo stesso però contenesse anche lui tutte le ragioni per cui l'alta velocità ferroviaria in Italia è una gigantesca truffa, iniziata all'inizio degli anni 90, e la meta mega opera che ne collega tanti altri tra di loro e ha prodotto già dei danni insomma inquantificabili al nostro paese, alla sua società, alle casse dell'erario pubblico, e ai diritti dei lavoratori e a quant'altro. Ma ok, uso il microfono. Chiedo scusa per l'abbassamento del tono di questa domanda, che sembra un po' da ventenne rampante che vota sia il referendum, però il TG1 mi ha detto che ormai la TAV non si può fermare perché sono stati spesi troppi soldi e quindi ormai non si può più tornare indietro, non si possono più fermare i lavori. Ecco, volevo sapere come posso contestare questa affermazione delirante con argomenti più validi dell'ideologia, ma sei un coglione. Grazie. Cioè, un coglione non è l'ideologia. No, beh, lui è molto in questo caso. No, sono stati spesi molti soldi, ma se tu provi a pensare semplicemente a quello che è stato speso per il ponte sullo stretto di Messina, che ancora non è stato messo un chiodo, ma hanno speso, lo sai Rob, comunque una cifra pazzesca, sì esatto. Quanto? 400 milioni di euro per il ponte sullo stretto che vediamo tutti. Solo per la progettazione. La progettazione. Quindi a parte il fatto che se i lavori venissero bloccati non ci sarebbero penali, anche se continuano a dire che si dovrebbe pagare una penale, ma tutto questo non è scritto da nessuna parte, il costruire l'opera porterebbe un esborso ben superiore a quello che fino ad oggi hanno speso. La manutenzione e l'opera in sé ha dei costi di energia, di manutenzione, come ti dicevo, che ad oggi nessuno è mai riuscito a dimostrare che potessero rientrare questi costi dal trasporto delle merci che vi dovrebbe essere tra la Francia e l'Italia, quindi non c'è, quindi quella linea lì ad oggi, ti assicuro, non lo dico io che ci capisco poco, ma ho sentito degli esperti di trasporti a livello nazionale che ti dicevano che ad oggi a pensare tra 10-15 anni non è pensabile che vi sia una quantità di merci trasportate tra l'Italia e Francia che potessero giustificare l'opera. Quindi è un risparmio sicuramente il bloccarla ad oggi. Hanno speso dei soldi per costruire questo cantiere, che a volte spesso la domanda è: ma ormai l'hanno iniziato a fare? Hanno iniziato a fare un tunnel geognostico, che stanno scavando la montagna per capire cosa c'è dentro la roccia, sotto la montagna, e come è fatta la roccia. Non è ancora iniziato il cantiere per il tunnel di base, in teoria dovrebbe iniziare tra il prossimo anno e il 2018. Sì, doveva iniziare, calcolate che nel 2015, nel 2010 la prima doveva essere già operativa il TAV Torino-Lione. Nel 2010 hanno tentato di fare i sondaggi poi, invece, ma anche qua nell'opera di ricostruzione andiamo indietro nel tempo e vediamo che è dalla fine degli anni 90 che ogni volta ci sono delle date che poi sono state spostate in avanti. Quindi il fatto che hanno speso dei soldi, la risposta è: avete speso dei soldi, ma se continuate a spenderli per arrivare a costruirlo poi fino in fondo, avremo sprecato una quantità di denaro enorme, e oggi ne abbiamo spesa una briciola. Siamo ancora in tempo per fermarla. Io l'unica cosa che ti dico è: fino a che non metteranno l'ultimo pezzo di binario, noi saremo lì a dargli fastidio, e quindi questa sarà una storia infinita. Tra l'altro, se si parla di Torino-Lione, posso assicurare che quella linea lì non esisterà mai. Al limite, ma proprio combattendo col coltello tra i denti per 20-30 anni potrebbero fare il tunnel di base, ma forse no, neanche quello. Ma la Torino-Lione praticamente non esiste come progetto, non è in nessun programma di spesa, a Lione non ci si arriva, ai francesi non gliene frega niente, e qui hanno già ridimensionato di brutto, dicono si userà la linea storica, facciamo il tunnel di base con la linea storica, e quindi tutto questo casino solo per fare un buco, per merci che non ci sono, il calo di merci tra Italia e Francia su quella direttrice non è un calo, è un tracollo. Cioè, la linea storica attuale potrebbe trasportare 20 milioni di tonnellate di merci, ne trasporta meno di 3. Cioè, non esiste questa cosa qua. Le stime sono sempre state campate in aria e sono sempre state smentite dalla realtà anno dopo anno. Se uno guarda i loro grafici nella valutazione costi-benefici, cioè queste sinuose linee che, mettendo insieme ascissa e ordinata, salgono, si inerpicano, volano, poi vedi invece quelle reali e così sono stati sempre smentiti, perché sono stime fatte senza alcun rigore scientifico. Ci sono alcuni tecnici che si sono presi la tigna e da anni dimostrano ogni volta che non c'è alcun metodo scientifico in quelle previsioni. Angelo Tartaglia è uno che le ha sempre demolito, proprio con gli strumenti proprio scientifici, ha sempre demolito tutte quelle previsioni lì, per dire che non avevano alcun senso, è una roba totalmente inutile. Ma cominciano ad ammetterlo loro stessi che l'alta velocità ferroviaria, tra l'altro da Torino-Lione non sarebbe nemmeno alta velocità, continua a dire così, ma in realtà appunto non c'è più l'idea che quella debba essere una linea ad alta velocità. Adesso, prima hanno detto alta capacità e adesso e però non continuavano a dire TAV anche loro, perché treno alta capacità, la sigla è TAC, dire vi facciamo una TAC ricorda un trauma cranico, no? Non l'hanno mai usata sta roba, davvero sta roba del TAC, no? E adesso addirittura dicono che si usa la linea storica, cioè che il movimento no TAC da sempre dice si può potenziare la linea storica. Adesso lo dicono, facciamo solo il tunnel di base e non la linea di qua e di là. Sì, cioè, l'hanno chiamato il ridimensionamento intelligente. Gli ultimi annunci di Del Rio praticamente mettono da parte l'idea di una linea ad alta velocità lì, però il tunnel di base va fatto perché va fatto, e ti dicono va fatto perché c'è il Gottardo, va fatto perché c'è l'Eugberg, perché oggi si fanno i tunnel di base, ma perché? Cioè si fanno dove servono i tunnel di base, no? Però appunto oggi loro stessi cominciano ad ammettere che l'alta velocità ferroviaria è una cazzata, è in perdita in tutto il mondo, anche in Italia è in perdita su tutte le linee nette. Loro questo dato lo nascondono perché ti dicono è inattivo, ma tenendo conto solo dei costi di esercizio, senza i costi di investimento, e siccome è costata cariolate di miliardi di euro, quei costi di investimento lì cercano di toglierli dal calcolo e ti parlano solo dell'anno e dei costi di esercizio, però in realtà il debito pubblico generato è generato dalle spese di investimento, e quelle le tolgono, un trucchetto proprio da gioco dei bussolotti, da tre cartari, no? Questo fanno. Però quelli che, come è successo nel 2011, quelli che fanno studi seri rimettendo nel calcolo i costi di investimento, hanno calcolato che tutte le linee a alta velocità in Italia sono in perdita nettissima. Addirittura, appunto prima parlavo della Torino-Milano, la Torino-Milano avevano calcolato che dovrebbe avere 14 milioni di passeggeri all'anno per essere inattive, ne ha meno di un milione, ecco, per dire, perché come diceva Gentile nella lettera, alla stazione alta velocità di Bologna c'è poca gente perché ci sono solo quelli che prendono l'alta velocità. A me mi fa morire sta frase, perché hanno fatto la stazione apposta solo per i treni ad alta velocità e si accorgono adesso che c'è poca gente. Sono fantastici, però cominciano ad ammetterlo anche loro che l'alta velocità è stata una scelta devastante, ok? Ci hanno mangiato solo quelli dell'edilizia che quelle robe lì le hanno costruite. C'è tutto un mio reportage dalla stazione di Reggio Emilia nel libro, che appunto dicevo prima è il monumento all'inutile, è la bellezza dell'inutile, perché è bellissima. Peccato che sia vuota, non c'è nessuno, ok? Ed è costata 58 milioni di euro. All'inizio il progetto era 15 milioni di euro, poi hanno detto no, ma chiamiamo un archistar, hanno chiamato Calatrava, automaticamente da 15 è diventato 58 milioni di euro. Calatrava, di cui spiego che ovunque vada, ovunque costruisca qualcosa, si aprono delle foibe di debito pubblico, ok? Delle foibe profondissime di debito pubblico. Ecco, lì racconto Reggio Emilia. Però guardate che in valle vorrebbero fare cose più assurde, vogliono fare una stazione dell'alta velocità chiamando stazione internazionale a Susa, che ha meno di 10.000 abitanti, e non c'è alcuna motivazione per farci quella stazione lì, cioè non si capisce perché debba esserci una stazione internazionale a Susa, chi dovrebbe andarci a Susa? Ma avete sempre parlato di Torino-Lione, capito, dicendo che quelli di Torino non vedevano l'ora di andare a Lione e quelli di Lione non vedevano l'ora di venire a Torino, e poi salta fuori la stazione internazionale di Susa. Ok, Susa è una bella cittadina, c'è anche l'Arco di Augusto, però non è che uno dice vado a Susa, no? Tra l'altro non è nemmeno vicina, cioè non è logisticamente, non c'entra neanche nulla con gli impianti di sci che ci sono in alta valle, così. Quindi quella sarebbe un'altra cattedrale nel deserto, tra l'altro impattantissima sul territorio, sarebbe perfino fatta da un archistar anche lì, perché bisogna sempre chiamare l'archistar è O giapponese o catalano. Di solito l'archistar, no, che ti chiamano, è o giapponese o catalano. Catalano valenziano, Calatrava, Bofill, qui da noi la stazione doveva fare Bofill, la Reggio Emilia l'ha fatta Calatrava, dopo non l'ha più fatta Bofill, ma questa qui sotterranea di cui le ferrovie hanno appena ammesso la totale inutilità l'ha fatta Isodachi, no? Bisogna sempre chiamare o un giapponese o un catalano, ho notato, perché star sono loro. Io volevo fare una riflessione sull'intervento che ha fatto prima Roberto in merito, diciamo, ai motivi per cui in Val di Susa c'è una certa opposizione e qui non esiste. E penso che tra i vari motivi per cui in Emilia si è sviluppata questa forma di, non so, come se ci fosse un incantesimo per cui ci si è addormentati su alcune posizioni, è che è stata fatta un'operazione di marketing culturale che è iniziata già da quando c'era la giunta di Tani, quindi con la deportazione di tutti i centri sociali fuori dalle mura, e lì l'opposizione dell'antagonismo bolognese ed emiliano non è stata un'opposizione veramente rilevante a questa forma di marketing culturale che poi si è sviluppato nel corso degli anni con tutte le conseguenze che appunto ha portato. Questa operazione di marketing culturale comporta proprio il fatto di essere orgogliosi di cancellare le proprie origini, quindi per noi la festa della resistenza è diventata un pellegrinaggio a Montesole il 25 aprile e si conclude lì, oppure la festa di Via del Fratello il 25 aprile. E inoltre l'Emilia-Romagna è un apparato produttivo economico da guerra che vuole in tutti i modi cancellare quelle origini storiche partigiane, perché sono scomode e perché mettono i bastoni tra le ruote a una forma di progresso che non può essere ostacolato. Voi da un lato siete stati quasi fortunati, tra virgolette, essere stati inseriti nella categoria di montanari, perché è una categoria che vi permette di portare avanti senza essere inquadrati in una riduzione antiprogressista la vostra lotta no TAV. Quindi noi abbiamo anche questo problema, cioè che l'apparato di partito ha portato avanti una guerra spietata alle proprie origini, cancellandole. Il partito inteso come parte per il tutto, appunto le cooperative hanno fatto una guerra spietata alle loro origini e via così e tutto quanto. Devo dire, sulla resistenza alla deportazione delle occupazioni fuori dal centro, cioè è durata anni però la resistenza, cioè non è che è avvenuta in maniera indolore, nel senso si è continuato a provare a occupare in centro, la BA è ancora in centro per dire, però si è provato tantissimo a occupare in centro. E l'ultima esperienza che è stata punita soprattutto perché era in centro, cioè proprio puramente per quel motivo lì, è stata Bartleby, no? Che poi ha provato anche a rioccupare sempre in centro, il ex cinema Arcobaleno e tutto quanto, ma in centro nel salottino le occupazioni non ci devono stare e quindi spazzate via subito. Però appunto non è stato un processo indolore, la resistenza c'è stata, è durata 20 anni, ecco, la resistenza al fatto che le occupazioni fossero spostate sempre più lontane dal centro, dove pure è importante che ci siano anche lì, perché comunque io non sono centrocentrico, vivo in una periferia ed è importante che nelle periferie le occupazioni ci siano. Anzi, in questo momento in città sono molto più vitali le periferie del centro, il centro è stato appunto salottinizzato, liofilizzato, consegnato alle grandi catene del franchise, ripulito, infighettito, a parte le zone come Piazza Verdi, dove si dice che c'è il degrado. Ecco, guardate che la nostra unica speranza è il degrado. Io avevo una domanda per il compagno di Torino e il compagno di Ferrara. Avevo una domanda per loro due, che riguarda il rapporto tra i movimenti le istituzioni, la politica istituzionale, tra la spinta dal basso e i cosiddetti governi amici. Perché per quello che ho visto, per quello che ho studiato un po' del movimento No TAP, periodicamente anche la geografia politica ed istituzionale nella valle è cambiata in base a come ci si è posizionati rispetto all'opera, stancendo le fortune e le sfortune di movimenti politici che hanno deciso di misurarsi con questo tema e posizionarsi in un certo modo piuttosto che un altro. C'è una novità che ha coinciso più o meno, lo so perché ne avevamo un po' parlato, con la chiusura del libro. C'è un movimento che ha puntato a essere notato ed è diventato anche primo partito a Torino, tant'è che adesso il sindaco esprime. Qual è il rapporto in questo momento tra il movimento Notav e il movimento 5 Stelle, che in qualche maniera per molto tempo ha tirato sulla la bandiera? Sappiamo anche, qualche volta dicendo che erano gli unici rappresentanti, ci hanno provato a dire siamo gli unici rappresentanti dei Notav a livello istituzionale. Guarda, brevemente, il movimento Notav non ha mai sposato un partito, ha sempre guardato quello che poteva essere una sponda istituzionale per due motivi principali. La prima è per avere le informazioni che ci vengono tenute nascoste, pertanto se hai delle persone lì, un minimo amico, ti fanno arrivare queste informazioni che per te sono vitali per studiare il progetto e per sapere poi loro come si muovono, sia a livello repressivo sia a livello di mobilitazione per andare avanti nella costruzione dell'opera. L'altra opzione è quella di creare contraddizione all'interno delle istituzioni. Quindi quando Rifondazione aveva un bel pacchetto di voti e aveva deciso di andare dentro il governo Prodi, il nostro sentire era quello: diamo la fiducia a Rifondazione, non perché pensiamo che Rifondazione sia il partito che possa fermare il TAV, ma perché Rifondazione potrebbe creare delle crepe. Rifondazione il giorno dopo ha firmato un dialogo con Prodi dove diceva siamo d'accordo al TAV, l'importante è che andiamo avanti. Quindi abbiamo detto bene, abbiamo capito qual è il vostro intento in Valle di Susa, non metteteci più piede per favore e noi andiamo avanti come sempre abbiamo fatto, senza, cercando magari altre persone che a seconda del partito, ma questo ci interessava poco, riusciva a farci avere delle informazioni. L'Appendino ha vinto con un programma in cui diceva che era anche Notav, commentavamo proprio adesso che è uscita una lettera di Pronatura dal presidente, che Mario Cavagna, che è un valsusino doc tecnico, oppositore dell'autostrada, è uno dei primi oppositori alla Torino-Lione, quindi storico, ed è anche presidente di Pronatura, in cui ha scritto una lettera come Pronatura ieri, in cui gli diceva che adesso basta cincischiare, che sei stata eletta con un programma in cui dicevi che eri contrario al TAV, se eri contrario al TAV devi uscire dall'osservatorio. L'osservatorio è questo ente creato da Virani in cui le istituzioni vanno e devono decidere come fare il TAV, non se fermarlo, ma come farlo. I sindaci della Valle di Susa sono tutti usciti, eccetto Ferrentino, il personaggio che ricordavo precedentemente, ex leader del movimento, e l'Appendino aveva detto che lei sarebbe uscita dall'osservatorio. A fine anno devono ratificare l'accordo che era stato preso a Venezia, quello che diceva prima Roberto, in cui Hollande e Renzi avevano firmato l'ultima delle intese in cui si diceva che i lavori devono partire. Questa ratifica deve passare in Parlamento entro l'anno. Quello che abbiamo chiesto all'Appendino è: devi uscire dall'osservatorio prima della ratifica di questo di questo trattato, perché uscire dall'osservatorio è comunque un bel segnale importante, perché una città di Torino che si sfila realmente e non dice solo no, non siamo d'accordo, però continuiamo a pensare a Torino, non ce ne frega nulla. Quello è un atto concreto di opposizione. Esco dall'osservatorio. La lettera finisce, tra l'altro ce l'ho anche dietro, la lettera finisce dove si dice: guardi signor Appendino, che la Valle di Susa ha deciso più volte le sorti dei politici. L'Abresso ha perso un'elezione perché ha pensato bene di venire in Valle di Susa a dire determinate cose e è uscita dalla Valle di Susa che ha perso una valangata di voti e poi ha vinto quota. Quindi no, non l'abbiamo sposata come partito, adesso stiamo aspettando che fai qualcosa per quello che hai detto. Se non lo farai, prenderemo le giuste considerazioni. Quindi in Valle di Susa abbiamo, è vero, sì, abbiamo votato moltissimo il Movimento 5 Stelle, ma non perché siamo grillini, semplicemente perché cerchiamo degli appoggi che ci possano aiutare, ma alla fine quello che ti posso dire è che in Valle di Susa, qui dicevate il partito, in Valle di Susa la nostra fortuna, sapete cos'è? Che i sindaci al 90% sono indipendenti, liste civiche, tendenzialmente di sinistra, perché la nostra tradizione è quella, e io ne sono anche orgoglioso, è quella della resistenza, quindi liste civiche di sinistra, ma assolutamente staccate dai partiti, e anche all'interno del PD, che ci sono chiaramente anche in Valle di Susa, più volte il PD torinese ha fatto delle mozioni per cacciarli, perché sono all'interno del PD ma con una posizione no-tau, perché non puoi stare all'interno della Valle di Susa con una posizione sì-tau, perché sennò non ti voterebbero, chiaramente. E quindi sono nel PD con una posizione no-tau. Il presidente dell'Unione della Comunità Montana Valsusina è un PD, Sandro Plano, che le testuali parole più volte gli chiedono: ma lei perché non prende posizione contro i violenti? La sua risposta è sempre stata: io non posso prendere posizione contro i violenti, perché se voi non fosse qui con le vostre forze dell'ordine non ci sarebbero neanche i violenti, quindi se iniziate ad andare via voi, i violenti non esistono più. Questa è la dichiarazione di un PD della Valle. I violenti sono loro, se ne vanno loro, quindi non chiedete a noi di non essere violenti, però iniziate ad andare via e il problema si risolve. Mi hanno detto che abbiamo sforato e adesso dobbiamo fare il reading dal libro con la band, il Bhutan Clan, quindi, però dopo siamo sempre qua, quindi i libri sono sul banchetto, siamo qua anche dopo, chi ha domande le può fare anche in privato e in capannello. Io ringrazio veramente tanto Maurizio e Elena che sono venuti dalla Val di Susa per la serata, e niente, adesso tacca banda, facciamo il reading.